Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Come se non bastasse il terremoto bancario che è in corso da qualche mese, c'è un altro scandalo americano che da qualche giorno è tornato a scuotere il mondo della finanza internazionale. Si tratta di una gigantesca truffa, qualcosa che vale 50 miliardi di dollari o giù di lì, architettata dall'ex numero uno del Nasdaq, la borsa dei titoli tecnologici americani, il signor Bernard Madoff. L'uomo è stato arrestato per aver orchestrato questa frode gigantesca attraverso la creazione di un hedge fund ombra. E di che cosa stiamo parlando questa mattina? Proprio quello di cui appunto cercheremo di spiegarvi i dettagli nel corso della nostra puntata. In queste ore è in corso da parte delle autorità americane il lavoro di ricostruzione della mappa mondiale dei clienti di Madoff caduti nella frode. Ieri la vicenda è sbarcata ufficialmente in Europa perché tutte le banche, tutte le istituzioni finanziarie hanno dovuto comunicare al mercato quale fosse la propria esposizione verso questo fondo gestito dallo scalzo finanziere. Noi ovviamente stamattina vorremmo cercare di ritornare su questo argomento un po' in punta di piedi, perché non è esattamente facile capire che cosa sia successo e soprattutto qual è l'impatto anche nel sistema di questi prodotti di investimento. Vorremmo cercare anche di rassicurare, e da mesi non facciamo altro, i risparmiatori italiani che non ci saranno conseguenze rispetto a questo crack, ma vorremmo anche spiegare cosa sono questi hedge fund, questi strumenti di investimento che adesso sono al centro dello scandalo Madoff, come vengono gestiti questi prodotti e perché a loro tra l'altro è stata anche attribuita nei mesi passati molta responsabilità della crisi attuale. I nostri interlocutori di oggi saranno Stefano Gaspari, amministratore delegato di Mondo Edge, che tra l'altro questa mattina ha comunicato al mercato qual è l'impatto del caso Madoff sui fondi di fondi Edge italiani. Mondo Edge è il primo sito e il primo mensile in lingua italiana interamente dedicati a tutti quelli che sono interessati al mondo appunto di questi strumenti di investimento. E poi sentiremo Stefano Bestetti, consigliere di amministrazione di Edge Invest SGR. Edge Invest è tra le prime 10 società di gestione del risparmio alternative presenti sul mercato italiano. Ed è proprio una casa di investimento specializzata nella creazione e gestione di fondi Edge. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Oggi ho cominciato prima da questo, ma in realtà il vostro numero è il numero verde che vi consente di intervenire a Salva Danaio. Se avete delle curiosità su questo argomento è l'800-24-00-24. Prima di entrare nel merito della questione, dobbiamo però anche raccontarvi di questa giornata di borsa. E da due giorni, proprio all'indomani del caso Madoff, la stiamo monitorando attentamente e abbiamo notato che per la verità la borsa è stata preoccupata, ma forse l'effetto devastante come molti pronosticavano tra sabato e domenica non c'è stato nessun impatto sul mercato azionario. Oggi il mercato guarda, lo fa per la verità già da ieri, in particolar modo alla riunione della Banca Centrale Americana che stasera porterà i tassi di interesse in tutta probabilità, il mercato da per scontato questo taglio dei tassi di interesse allo 0,50%, il livello più basso della storia americana. Allora, prima di sentire la nostra scheda sul caso Madoff e di entrare nel merito del nostro tema di questa mattina, andrei però subito a commentare la giornata di borsa e queste aspettative sul taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Giulio Baresani Varini, direttore investimenti di Banca MB, buongiorno. Non so perché buongiorno. Mi è venuto buonasera, non ho capito. Come mai l'impatto Madoff non c'è stato, Baresani Varini? Cosa ne pensa? Borsa hanno già perso il 50% e direi che scavare oltre questo è impossibile, dice lei? Ma dai massimi dell'estate 2007 siamo al 60-70, che poi su alcuni titoli anche importanti è 80-90, quindi credo che di liquidità se ne fosse fatta già abbastanza. L'altro aspetto è che di cui si parla poco è che nel caso Madoff si rischierà un effetto riscatti già preparato secondo me dagli hedge fund, che non sono mai stati così liquidi come adesso, ma non c'è stato un effetto domino di una sorta coattiva, perché se era tutto falso non c'era neanche niente da vendere, quindi non c'è stata Impatto sistemico, diciamo. Un impatto sistemico nel senso, non so, Kerviel di Sogen piuttosto che Long Term Capital Management, dove a un certo punto quello che resta va venduto o svenduto come l'argenteria di casa per far fronte diciamo ai riscatti. Qui non c'è nulla, ci sono due problemi. Uno, quello delle revocatorie, perché se è fallito 2 giorni fa un conto, se è fallito 10-15 anni fa bisogna vedere tutti quelli che avevano riscattato, ed erano anche tanti, perché qui si guadagnava sempre, e quindi qualcuno che portava a casa sostituito da altri che arrivavano nella logica della catena di Sant'Antonio ci sarà. Ha colpito sicuramente i ricchi, perché comunque questo è un danno a quei livelli, basta vedere determinate banche ginevrine o svizzere, comunque certi ambiti del private banking più che del retail, e soprattutto è l'ennesima bufala che ci arriva dagli Stati Uniti con, come dire, ormai credibilità dalla SEC a tutti i loro organi di controllo. Dalla gestione del fallimento sbagliato della Lehman, sbagliato per l'effetto sistemico che ci è costato da quel giorno un altro 20% in meno mediamente dei mercati, a questo punto, diciamo, sicuramente non aiuta, però accelera le necessità di cambiamento, col rischio poi di regolamentare in modo eccessivo e quasi giustizialista un mercato che non è la colpa degli hedge ma degli organi di controllo e delle banche che li finanziano, e che a loro volta non è che sono degli hedge, ma insomma sono abbastanza levereggiate anche loro. Mi ha dato degli spunti appunto per continuare poi a conversare con gli altri ospiti che la seguiranno. Mi interessava però ritornare al primo punto, la non reazione della borsa rispetto a questo caso e il fatto che comunque lei ritiene che dopo tutto il calo che c'è stato tra il mercato azionario è impossibile scendere ulteriormente a fondo. Anche questo è un segnale. Secondo lei dunque il mercato azionario è pronto a ripartire? Direi questo, stanno uscendo tutti gli Outlook 2009 e tutti quasi banalmente dicono meglio l'America dell'Europa perché è entrata in crisi prima e sicura meglio, meglio i titoli difensivi e non i ciclici e non i bancari, non si compra nel primo semestre ma si compra nel secondo, mi sembrano tutte cose un po' telefonate, posto che poi le previsioni di fine anno per l'anno successivo sono sempre completamente sbagliate. Nel 2006 tutti chiamavano il Giappone, fu il peggiore, nel 2007 il decoupling, diciamo lo sganciamento degli emergenti, dei BRIC, delle Cine, poi le materie prime, insomma direi che le borse non possono solo salire o solo scendere. È ovvio che il mercato già sconta molto, ci saranno 3 o 4 trimestri di recessione oltre quello che viviamo nei paesi occidentali, quindi sarà un 2009 brutto. Bisogna capire se è meglio comprare un titolo a 20 volte gli utili con prospettive di crescita e a 3 volte i mezzi propri, o a metà dei mezzi propri a 6 volte gli utili con basse prospettive. Quindi se uno ha un approccio più da fondamentale oppure da starne fuori. Allora, se uno non le ha, può anche, come dire, guardare e magari salire su eventuali primi segnali di ripresa economica. È evidente che questo mercato non so se ti lascerà il tempo di rientrare quando darà dei buoni segnali, e in chiave macroeconomica non so quando, ci vorrà molto tempo, pensiamo alle case disoccupate e via dicendo. Però i prezzi oggettivamente ci sono, i tassi stanno andando a zero un po' dappertutto, quindi, come dire, non ci sono pasti gratis presso cui riposarsi, e le cure, tassi, tasse a ribasso, spese pubbliche e concertazione finalmente cominciano a curare in modo draconiano un, come dire, mercati che in 24 anni di lavoro non ho mai visto così. Quindi diciamo c'è tutto il meglio e il peggio, però diciamo qualche approccio un po' contrario, ecco, secondo me è il caso di azzardarlo. Dipende, in ogni caso, questo specifichiamolo molto bene a chi ci ascolta, dagli obiettivi di investimento che si hanno. Questa è insomma la regola aurea che dobbiamo sempre ben tenere presente. La ringrazio, Baresani Varini. Grazie. Buongiorno, naturalmente, buona giornata. Noi adesso invece andiamo nel merito del tema che abbiamo scelto di affrontare questa mattina. La cronaca ce lo impone, stiamo continuando a parlare da qualche giorno di questo crack Madoff, ma di che cosa si tratta? Non bastava il terremoto provocato dalla crisi dei mutui subprime, che nel 2007 ha scosso l'economia americana con pesanti effetti anche oltreoceano. E neppure il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers lo scorso 15 settembre, che ha messo in ginocchio l'intero sistema del credito, costringendo i principali governi a intervenire a protezione delle banche. Ora è il turno di Bernard Madoff, uno scaltro finanziere di lungo corso ex numero uno del Nasdaq di New York, che è riuscito a truffare una vasta platea di gestori della finanza internazionale per 50 miliardi di dollari. Una frode di proporzioni epiche che rischia di avere conseguenze dirompenti sull'economia mondiale, già ampiamente provata. Un nuovo crack che in molti ha risvegliato il ricordo della vicenda dell'hedge fund LTCM, che nel 1998 coinvolse la finanza americana e non travolse l'intero sistema solo grazie all'intervento della Banca Centrale Americana. E da ieri si moltiplicano gli annunci dei gruppi bancari e delle istituzioni finanziarie che riferiscono di essere rimaste vittime della frode. I gruppi maggiormente coinvolti al momento sono la banca britannica HSBC, con un'esposizione di circa un miliardo di dollari, e il gruppo Santander, prima banca iberica e una delle maggiori in Europa per capitalizzazione, che avrebbe investimenti in prodotti della Bernard Madoff Investment Securities per un valore di 2,3 miliardi. Nel nostro paese c'è chi parla di un'esposizione complessiva di oltre 3 miliardi. La Consob ha avviato accertamenti per valutare l'impatto del crack Madoff sul sistema finanziario italiano. I casi più rilevanti al momento sono quelli di Unicredit e Banco Popolare, che stimano una perdita massima rispettivamente di 75 milioni e di 60 milioni di euro. Ma la circostanza non dovrebbe generare preoccupazione tra i piccoli risparmiatori, visto che i prodotti interessati dalla truffa sono destinati a portafogli molto importanti. Certo è che un altro duro colpo è stato inferto all'immagine del sistema finanziario nel suo complesso. 800240024 è il numero verde per i vostri interventi, i vostri messaggi invece li potete inviare al 349-238-6666. Stefano Gaspari, amministratore delegato di Mondo Edge, buongiorno e benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno a tutti. Prima di cominciare con le mie curiosità a lei rispetto a quello che sta accadendo, le leggo un messaggio di un ascoltatore, Roberto, che dice: gli hedge fund muovono capitali enormi capaci di influenzare le borse mondiali, e anche il Time settimane fa parlava di crolli di questi fondi e sono sicuro che ne arriveranno altri, ma volevo chiedere se è vero che il valore globale degli hedge è superiore al 20% del PIL mondiale. Me lo può confermare Gaspari? Stiamo parlando di cifre di questo genere? Assolutamente no, l'industria mondiale degli hedge fund conta circa ad oggi 1,5 trilioni di dollari, un dato aggiornato a fine ottobre 2008 che testimonia quanto, diciamo, è molto più piccolo rispetto al mondo del risparmio gestito tradizionale, un'intera industria grande quasi come la più grande casa di investimento americana, come può essere Fidelity, per fare un esempio. Quindi questo sicuramente rassicura sul fatto che l'industria edge è un piccolo tassello all'interno di tutto il mondo risparmio gestito mondiale. E questo è il motivo anche perché molto spesso questa industria si è chiamata fuori anche dalla responsabilità che gli è stata attribuita di aver comunque creato, no, tutto il terremoto finanziario a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, Gaspari. Sì, anzi continuiamo a ribadire che noi siamo, diciamo, un asset class che ha subito un po' tutti gli effetti di questa crisi, che va individuata nel sistema bancario, un sistema che comunque sia aveva dei forti indebitamenti, circa 30-40 volte il patrimonio, quando invece risulta da fonti autorevoli come può essere la Banca Centrale Europea o il Fondo Monetario Internazionale, che hanno fatto studi molto recenti stimando che l'indebitamento medio di hedge fund è ai minimi storici, pari a circa 1,4 volte il patrimonio, un dato aggiornato ad aprile, ma proprio ieri è uscito l'ultimo Financial Stability Review del elaborato della Banca Centrale Europea, che ha affermato che l'indebitamento medio degli hedge fund è sceso addirittura a 1 volte il patrimonio a ottobre 2008, quindi sta a significare ancora di più che gli hedge non sono indebitati, ma anzi che hanno riallocato i loro investimenti in posizioni liquide, quindi in cash o comunque sia in asset meno rischiosi. Che è un po' tra l'altro quello che stava dicendo anche prima Giulio Baresani Varini. Questo lo hanno fatto secondo lei, Gaspari, adesso so che in realtà dovremmo parlare anche dell'impatto in Italia rispetto al crack Madoff, ma lo stanno facendo la questione appunto di riallocarsi in liquidità proprio per fronteggiare una possibile ondata di riscatti che potrebbe arrivare nel sistema? Sicuramente sicuramente è anche una delle motivazioni, nel senso che comunque sia già in anticipo, comunque sia gestori hedge hanno voluto aumentare le posizioni cash in vista anche di questa crisi che era un po' prevista anche a livello dell'economia reale, tant'è vero che anche il Fondo Monetario Internazionale ha affermato che le posizioni cash degli hedge fund sono aumentate dal 14% al 22% di oggi, e sicuramente anche per far fronte ai riscatti che diciamo erano nell'aria, che tra le altre cose una riduzione delle masse gestite dall'industria viene valutata anche positivamente dagli operatori del settore, in quanto porterebbe comunque sia una selezione del numero di gestori hedge operativi a livello internazionale, andando nella direzione di un'ulteriore evoluzione dell'industria su fronti come una migliore gestione del rischio, della liquidità, un corretto utilizzo della leva. Ecco, magari di questi temi parleremo in un secondo momento, mettendo anche a confronto le considerazioni di Stefano Bestetti, consigliere di amministrazione di Hedge Invest, che ci raggiungerà alle 12.30. Però di fronte ad un'industria che si stava preparando in qualche maniera a contenere, ad affrontare, a gestire, no? La crisi in corso, sicuramente l'industria di settore non immaginava che ci fosse qualcuno che tramasse addirittura alle sue spalle, architettando una truffa da 50 miliardi di dollari, Gaspari, che è quella appunto che è stata messa in piedi da Bernard Madoff, come abbiamo raccontato nella nostra scheda. Allora, sui fondi hedge italiani, qual è l'impatto di questa situazione che ancora una volta si sta consumando negli Stati Uniti, ma ancora una volta, come è accaduto sempre negli ultimi mesi, tutto quello che poi è successo al di là dell'oceano ce lo siamo subito anche noi. In questo caso possiamo parlare appunto di un effetto preoccupante. Voi so che avete monitorato tempestivamente le 33 società italiane che operano nel settore con oltre 260 fondi. Con che risultato, Gaspari? Ma infatti vogliamo proprio smentire le voci che sono apparse sui giornali in questo weekend, e vogliamo smentire questi allarmismi, in quanto chi ha puntato sui fondi di fondi hedge italiani secondo noi deve stare tranquillo. Risulta infatti limitatissimo l'impatto del caso Madoff sui fondi di fondi hedge italiani, pari a circa uno 0,5% del patrimonio totale in gestione dell'industria, circa quindi 80 milioni di euro su un totale di 15,9 miliardi di euro. Questo è l'impatto di Madoff sui fondi di fondi hedge italiani. E a livello dei singoli fondi di fondi hedge italiani coinvolti, nel peggiore dei casi l'esposizione dei fondi di fondi hedge era contenuta a un massimo del 3,7% del portafoglio, da cui consegue quindi un possibile impatto proporzionale, quindi non stiamo parlando chiaramente neanche della perdita del capitale come molte volte è apparso sui giornali in questi giorni, nei casi di investitori che hanno diciamo avuto accesso direttamente ai fondi hedge o ai feeder fund di Madoff. Che anche lì, insomma, poi tra l'altro stiamo già introducendo una terminologia che può risultare piuttosto complicata per i nostri ascoltatori, e se riusciremo cercheremo anche di dare qualche definizione. Ma allora cominciamo magari, Gaspari, quando noi avevamo avuto modo di parlare di questi strumenti di investimento nella nostra trasmissione, lo abbiamo fatto di rado per la verità, abbiamo comunque sempre definito l'hedge fund come un fondo di investimento, uno strumento di investimento altamente speculativo, banalmente perché essendo destinato a portafogli molto importanti, quindi ad investitori facoltativi e molto ricchi, si può permettere in sostanza di avere delle strategie di investimento più aggressive, chiamiamole così. Vale ancora questa definizione? Ma il mondo di hedge fund è un mondo estremamente variegato e articolato, che risponde a una serie di profili di rischio e rendimento diversi a seconda della direzionalità del mercato. Ci sono strategie più o meno rischiose che diciamo si adeguano a profili di rischio e rendimento della clientela in modi diversi. A livello di investitori è corretto, in Italia questi strumenti sono accessibili soltanto agli investitori facoltosi o investitori cosiddetti istituzionali come banche, fondi pensione o assicurazioni, in quanto la soglia minima di accesso è di 500.000 euro. Quello che però risulta negli altri paesi, la regolamentazione non è la stessa, nel senso che in altri paesi come in Svizzera o in Francia o in Spagna o anche negli Stati Uniti si può accedere anche con cifre inferiori all'investimento in hedge fund, e con questo continuo a sottolineare che deve essere diciamo anche abolita l'etichetta di fondo speculativo, di fondo ad alto rischio, in quanto come ho detto prima è un universo veramente variegato con profili di rischio e rendimento e quindi volatilità o parametri di rischiosità anche inferiori a mercati obbligazionari. Quindi l'impatto diciamo non è sistemico, come no, abbiamo già specificato, anzi no. Sui fondi di fondi hedge italiani l'impatto è marginale. Detto questo, però, potremmo trovare in Italia qualche cliente con un patrimonio molto rilevanti, clienti facoltosi che invece possono teoricamente essere incappati nel crack Madoff. Salvadanaio. Eccoci ritrovati da Deborah Rosciani, ancora buongiorno, eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina nel nostro contenitore della finanza stiamo cercando di orientarci in questo nuovo scandalo finanziario che arriva dagli Stati Uniti. Davvero da molti mesi non ci facciamo mancare niente. Questa volta si tratta di una cosa particolare, è però la più grande frode finanziaria della storia americana, a quanto pare, perché si tratta di qualcosa che vale 50 miliardi di dollari, una truffa gigantesca che è stata architettata da un personaggio che tra l'altro godeva della più alta credibilità anche nell'ambito finanziario americano, Bernard Madoff, un uomo appunto che è stato addirittura numero uno del Nasdaq, la borsa dei titoli tecnologici americani, che poi si è messo invece a creare un fondo di investimento. Stiamo più che cercando di capire come è funzionata la sua truffa, e speriamo appunto le cui conseguenze vengano arginate abbastanza rapidamente, in realtà, come stiamo facendo da molti mesi, cerchiamo di capire quanto impatto ha in Italia tutto ciò che da molti mesi sta arrivando dagli Stati Uniti. Adesso saluto Stefano Bestetti, consigliere di amministrazione di Edge Invest SGR. Bestetti, benvenuto a Salvadanaio. Noi sì, nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo cercato di capire intanto come mai la borsa abbia digerito molto rapidamente questo nuovo scandalo finanziario, ormai il mercato azionario si è abituato a tutto ultimamente, e poi abbiamo cercato anche di capire qual è stato il monitoraggio che è stato fatto rispetto all'industria degli hedge fund in Italia dopo questa nuova bancarotta, e abbiamo cercato anche di rassicurare come dire, risparmiatori italiani su quelli che non dovrebbero essere gli effetti tra i risparmi appunto dei consumatori nel nostro paese, anche se tutto sommato un rischio che qualcuno sia incappato in questa frode c'è, perché i patrimoni molto alti che in Italia investono su questa tipologia di prodotti di investimento ci sono, Bestetti, no? Io tra l'altro volevo anche spiegare un'altra cosa. Voi, la vostra è una società di gestione indipendente ed è tra le prime 10 società di gestione del risparmio alternative che sono presenti sul mercato italiano, quindi anche a voi in questi giorni la Consob ha chiesto chiarimenti appunto sul fatto che potevate essere esposti o meno verso il crack Madoff, è così? Sì, buongiorno innanzitutto Deborah, agli ascoltatori. È come dice lei, siamo in Italia, la struttura dei fondi edge è altamente regolamentata, e quindi l'autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, sono stretto a contatto con gli operatori per monitorare eventuali situazioni problematiche. Mi lasci però dire, proprio sui dati usciti sul mercato italiano, in particolare quello dei fondi edge italiani, hanno testimoniato il buon lavoro fatto dai gestori, dato che proprio oggi il Sole 24 Ore riportava un'indagine Mondo Edge, solo lo 0,5% è stato coinvolto, quindi un niente, sull'investimento in questo fondo. D'altro canto i segnali erano tanti, i fondi, visto che era una scuderia quella dei fondi gestiti da Madoff, davano un eccessivo regolarità nelle performance, non spiegabili con una strategia coerente con i risultati ottenuti. Non solo, ma la struttura organizzativa era assolutamente deficitaria di questi fondi, dato che gli investimenti, i soldi sottoscritti dagli investitori finivano proprio alla società di gestione, mentre come sappiamo nel 99% dei casi, sia negli hedge fund esteri che sia in quelli italiani, esiste una banca depositaria, cioè un soggetto terzo dove vengono depositati i soldi nell'interesse degli investitori. Ma tra l'altro sistema che funziona anche per i tradizionali fondi di investimento. Assolutamente sì, ecco. La presenza di una banca depositaria è a garanzia degli investitori, dato che il manager va poi a operare su un conto presso un soggetto terzo che vigila anche che le operazioni siano fatte nell'interesse dei sottoscrittori. Quindi i fondi italiani, grazie alla due diligence, hanno evitato sostanzialmente questo crack finanziario, e devo dire che purtroppo sono stati molto spesso gli investitori privati facoltosi, sia americani sia internazionali, presenti molto spesso in Svizzera, a incappare in questo fondo, forse allettati dalle performance così regolari. Esatto. I professionali, performance regolare, distribuzione anche delle cedole, dei rendimenti molto regolare. Ieri Mario Platero del Sole 24 Ore, due giorni fa, addirittura definiva questa puntualità nella distribuzione delle cedole quasi leggendaria a Wall Street, per cui come non farsi attirare anche, no, da questa correttezza nel comportamento che poi si è trasformata in quello che leggiamo in questi giorni sui giornali. Bestetti, la fermo un attimo, poi continueremo ad argomentare queste considerazioni con lei, perché però al di là poi delle rassicurazioni che continuiamo sulle quali continuiamo a spenderci anche da questi microfoni, chiaramente poi la sfiducia continua a propagarsi, no? E contagia anche ogni nostro rapporto con le società di gestione del risparmio, con le banche e quant'altro. Alessandro dalla provincia di Biella, buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione. Buongiorno. Cosa voleva sapere? Ascolti, io sono un piccolo risparmiatore della Banca Popolare di Novara, che fa capo, diciamo, al gruppo Banca Popolare. Sì. Non ho nessun legame con questi hedge fund, però volevo sapere se la banca qua in Italia avrà delle ripercussioni a livello di organigramma, a livello di aumento di capitale, comunque di protezione verso i suoi clienti che non sono comunque legati a questi fondi. Ecco, sono un po' preoccupato visto che l'azione è tra l'altro è anche crollata. Abbastanza precipitata, tanto che ha portato anche ad una drastica riorganizzazione ai vertici, perché come lei sa Alessandro si è dimesso l'amministratore delegato qualche giorno fa. Esatto. E volevo sapere dal suo esperto, per cortesia, se noi piccoli risparmiatori della Banca Popolare di Novara possiamo stare tranquilli oppure dobbiamo comunque che tipo di azioni dobbiamo fare verso la nostra banca, uscire o Alessandro, no, adesso non credo proprio che dobbiamo adottare comportamenti compulsivi di questo tipo. È un'altra rogna nella quale il Banco Popolare come Unicredit è incappata. Credo che però per la mole del danno la banca lo saprà assolutamente gestire, come ampiamente rassicurato ieri Bestetti. Però così le volevo chiedere un commento anche sul tipo di percezione poi che dall'esterno esce rispetto a questi casi. C'è chi si preoccupa addirittura di andare in banca e di trovare lo sportello chiuso, banalmente, come sta accadendo ad Alessandro, no? Sono strumenti di investimento tanto lontani da noi, nella teoria, poi nella pratica succede questo. Cosa ne pensa? Sì, purtroppo queste situazioni alimentano poi il panico da parte anche dei piccoli risparmiatori. Chiaramente la fortuna è avere un sistema giuridico, soprattutto in Italia, ma devo dire in quasi tutte le parti del mondo, che comunque garantisce gli investitori i privati e i depositari, nel senso che, come nel caso citato dall'ascoltatore poco fa, il banco può essere incappato con i suoi fondi hedge e saranno i sottoscrittori di quei fondi hedge, per quella piccola parte investita nei fondi Madoff, dovranno sopportarne la perdita. Poi il banco ha approcciato il mondo degli hedge con i fondi, di cui immagino anche a perdite contenute anche per quegli investitori. Ma sì, l'esposizione però comunicata alla Banca Popolare al massimo mi pare di 60 milioni di euro, sì. Quindi è importante anche poi distinguere gli impatti di queste situazioni su diversi rapporti che ci possono essere con i propri intermediari. Chiaramente in questo caso non c'entrano, non sono assolutamente coinvolti i depositari presso le banche, ma possono averne subito le conseguenze. Dai dati che abbiamo, per fortuna sono state poche le conseguenze per gli investitori italiani, solamente i sottoscrittori di fondi che hanno scelto poi la scuderia Madoff. Bestetti, ieri l'AIMA, che è l'Associazione Mondiale dell'Industria Hedge Fund, ha chiesto la restituzione per gli investitori colpiti dal crack dell'hedge fund di Bernard Madoff, la restituzione integrale delle cifre investite. Secondo lei è corretta questa presa di posizione? Io direi di sì, nel senso che, visto il comportamento scorretto e assolutamente fraudolento da parte di questi gestori, di questi manager, intentare qualsiasi tipo di azione per la restituzione del denaro. Direi anche che in questa situazione non ha fatto una grande figura l'autorità di vigilanza americana, dato che i fondi hanno subito, la società di gestione ha subito anche in passato dei controlli, ma è sempre passata indenne da parte di questi controlli. Quindi un'azione diretta sia sui manager, ma anche interpellare l'autorità di vigilanza e far pressione sull'autorità di vigilanza, dato che i fondi gestiti da Madoff sono stati ispezionati, la società di gestione è stata controllata per ben due volte da parte della SEC. Quindi segnali c'erano, e ancora una volta l'intervento non solo non è stato fatto con ritardo, non è stato proprio fatto, e viene fatto in queste ore con con l'aspetto giudiziario, peraltro, che è qualcosa di molto più grave. Volevo tornare a Stefano Gaspari, ricordandovi il numero verde l'800240024 per intervenire questa mattina. Stefano, parlavamo prima del vostro monitoraggio sulle 33 società italiane che operano nel settore con oltre 260 fondi. Un ascoltatore vuole un'informazione ancora più precisa, ma dato che abbiamo spiegato molto bene che il taglio dell'investimento in Italia è estremamente alto, allora lui dice: ma quanti cittadini italiani investono in hedge fund? Mondo Hedge ha anche una statistica di questo tipo, adesso non so se la metto in difficoltà. Una statistica di questo tipo non è mai diciamo stata effettuata, sicuramente proprio per la natura, diciamo, per il profilo dell'investitore. No, assolutamente c'è molta privacy. No, sicuramente ci sono delle statistiche a livello di famiglie facoltose, individui facoltosi presenti nel mercato italiano, che si stima essere circa 750.000, se non erro, come investitori facoltosi, che sicuramente possono accedere anche a questa asset class. Però una statistica di questo tipo al momento non è stata fatta da nessuno, da quello che mi risulta. Salva Danaio. La cronaca degli ultimi giorni ci impone, a Salva Danaio, di occuparci del funzionamento in Italia dell'industria degli hedge fund. Stefano Gaspari, amministratore delegato di Mondo Hedge. Allora, un fondo hedge, come funziona? Qual è la politica di investimento di uno strumento di questo tipo? Innanzitutto, un errore diffuso a proposito di hedge fund è considerarli degli strumenti rischiosi che perseguono dei rendimenti elevati speculando, diciamo, al ribasso dei mercati. In realtà gli hedge fund, come ho anticipato prima, presentano un'ampia gamma di profilo rischio rendimento e hanno l'obiettivo di offrire agli investitori una protezione più o meno accentuata nel medio o lungo periodo dagli shock di mercato, dagli stress di mercato che poi stiamo vivendo anche in tutto il 2008, partecipando però allo stesso tempo alle fasi anche di rialzo dei mercati. Quindi è un hedge fund che è un veicolo di investimento che può utilizzare metodi e strumenti anche di copertura del rischio, e però che si differenzia rispetto appunto allo strumento fondo di fondi per il fatto della diversificazione. Lo strumento fondo di fondi è uno strumento che investe in altre quote di hedge fund, e la diversificazione è sicuramente la caratteristica principale. No, tanto per arrivare a quello che gestiva Madoff, era un fondo di fondi? Quello che gestiva Madoff non era un fondo di fondi, era un vero e proprio hedge fund, mentre invece in Italia è costruita una realtà di fondi che investivano chiaramente in altre quote di hedge fund, come quelle della scuderia di Madoff. Ho capito. Invece io avevo capito male, pensavo che fosse un fondo di fondi hedge. Stefano Bestetti, tra l'altro stavo continuando anche così a monitorare un po' le considerazioni dei nostri ascoltatori, che si rifanno in particolar modo al fatto che alcune banche italiane in questo periodo non si sono davvero fatte mancare niente. D'altronde la logica della diversificazione, Bestetti, significa anche questo, no? Assolutamente sì, diciamo che è lo strumento più semplice, in un certo senso l'arma più semplice a disposizione degli investitori, è poter diversificare su più asset class. Non solo, ma all'interno, lo spiegava prima il direttore Gaspari, all'interno del mondo hedge gli italiani hanno puntato soprattutto sul veicolo fondi di fondi, quindi portafogli diversificati su più fondi hedge. Nel caso Madoff non solo i gestori italiani sono stati bravi a evitarlo sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche chi è incappato con piccole percentuali del proprio portafoglio, del proprio fondo di fondo, grazie a questa diversificazione avrà un impatto limitato nella performance. Bestetti, sicuramente lei si sarà sbizzarrito anche, come abbiamo fatto noi in questi giorni, a leggere la cronaca, no, della costruzione di questa truffa da parte di Bernard Madoff, e molti ascoltatori ci chiedono appunto di aiutarli a capire come ha fatto a mettere in piedi un patrimonio da 50 miliardi di dollari e tra l'altro ad alcuni clienti che gestiva riusciva anche a garantire, a restituire, no, i rendimenti che otteneva da questi prodotti, ma in realtà i rendimenti non è che li otteneva investendo direttamente in altre società, quindi gestendo direttamente il suo fondo. Banalmente aveva orchestrato la più semplice delle truffe, la cosiddetta catena di Sant'Antonio, no, Bestetti? Esatto, ha attirato molti investitori grazie alla costanza dei rendimenti, quindi utilizzava sostanzialmente, cerco di semplificare, la raccolta nuova fatta da nuovi investitori per pagare le performance dichiarate che in realtà erano inesistenti. Il Madoff dichiarava una strategia, ovvero l'acquisto di azioni americane a larga capitalizzazione, e al contempo l'acquisto di opzioni a copertura di queste azioni, cercando quindi di ottenere sempre comunque un risultato positivo, basso ma sempre comunque positivo. Questo ha attirato poi successivamente l'interesse di molti investitori che hanno semplicemente guardato alla performance, e questa sorta di catena di Sant'Antonio ha permesso di continuare a alimentare il fondo per i diversi fondi sotto la consulenza di Madoff per parecchio tempo. La vostra società è mai venuta in contatto con questo scaltro finanziere? Ma i fondi gestiti sotto la consulenza di Madoff sono famosi, cioè fino a oggi ancora di più, ma anche in passato, proprio per questa regolarità delle performance. Quindi posso affermare che quasi tutti, come noi, tutti i gestori di fondi sono entrati in contatto con questa realtà, ma proprio per quelle sorte di bandierine rosse, ovvero questa regolarità nelle performance non spiegabile da una strategia sostenibile nel tempo, una organizzazione assolutamente discutibile e l'assenza di investitori istituzionali importanti tra i suoi sottoscrittori, intese come fondi pensioni americani o fondi hedge con consolidati processi di due diligence, ci ha portato, come tanti altri in Italia, a scartare i fondi sotto la consulenza, sotto la gestione di Madoff. Voi perché li avete scartati? Ma non riuscivamo a capire fino in fondo, anzi devo dire molto poco, come i fondi gestiti da Madoff riuscissero a ottenere sempre comunque risultati costanti indipendentemente dall'andamento dei mercati. Non c'era accesso diretto al manager, un paletto per noi necessario per poter investire in un hedge fund e poter parlare direttamente con il manager, con il money manager, e capire con lui quali sono gli scenari ideali per il suo fondo, quali sono gli scenari peggiori. Ecco, lui si negava in questi incontri di due diligence, e poi una struttura organizzativa, come dicevo, che non prevedeva, come nel 99% dei casi dei fondi hedge, anche esteri, una banca depositaria con la custodia dei soldi sottoscritti, delle sottoscrizioni raccolte dagli investitori. Quindi ci ha subito tenuti questi segnali, ci hanno tenuti lontani dai fondi. E insomma, una scelta che evidentemente è stata estremamente lungimirante alla luce di quanto è accaduto negli ultimi mesi. Stefano Gaspari invece, Mondo Edge. Noi tra l'altro, parlando di fondi di investimento, da molti mesi, lo facciamo quasi ogni mese per la verità, non facciamo che raccontare di come sia in crisi globalmente l'industria del risparmio gestito da 2 anni, i riscatti da questi prodotti sono veramente inarrestabili, una tendenza che sta continuando, anche se in realtà poi abbiamo notato che nell'ultimo mese sta riprendendo la raccolta su alcune tipologie di prodotti. Detto questo, l'industria degli hedge fund come ha globalmente risentito della crisi, e quale ritiene possa essere a questo punto anche l'impatto, qui torniamo magari al tema anche che abbiamo affrontato in apertura, di questa colossale truffa finanziaria orchestrata dal signor Madoff? Ma come ho anticipato prima, sicuramente anche a livello di masse gestite, l'industria alternativa, non soltanto italiana ma in primis quella mondiale, subirà una riduzione delle masse gestite, che è già in atto. Siamo passati circa da 1,8 da 1.800 miliardi di dollari in gestione a fine 2007, siamo ad oggi circa 1.570 miliardi, quindi anche a livello mondiale c'è in atto una riduzione delle masse, che però viene valutata appunto anche positivamente dagli operatori del settore, in quanto cerca di arrivare a una possibile selezione di un numero di gestori operativi, andando in una direzione di un'industria più matura sotto appunto diversi punti di vista, tra cui la gestione del rischio e la liquidità. Al tempo stesso sicuramente si considera anche positivamente l'uscita dall'asset class del cosiddetto hot money, cioè quegli investitori che sono entrati nell'asset class degli hedge sulla spinta di una pura ricerca di rendimenti di breve periodo, e ad esempio senza avere una reale consapevolezza delle caratteristiche specifiche di questo strumento, quale può essere ad esempio l'orizzonte di valutazione di medio-lungo periodo dei rendimenti di questa asset class. Quindi anche per questi prodotti vale in genere la regola che molti esperti ci suggeriscono di adottare, appunto per ogni tradizionale strumento di investimento, in particolar modo quelli che puntano sul mercato azionario, avere un'ottica di lungo periodo? Ma soprattutto la categoria di hedge fund deve essere vista in ottica di medio-lungo periodo per una valutazione efficiente dei rendimenti, almeno 3, 5, 7 anni, in modo da considerare dei interi cicli finanziari. Stefano Bestetti, tra l'altro stiamo andando verso la conclusione e stavo anche leggendo con curiosità un messaggio di un ascoltatore che dice: dottoressa Rosciani, non mi sembra corretto parlare di basso impatto di questa truffa, perché l'impatto sarebbe stato basso di fronte ad un mercato di tassi normale, ma di fronte a performance negative del 20%, adesso non so cosa si riferisca, se andiamo a guardare il mercato azionario magari fosse il 20%, i poveri risparmiatori finiranno per pagare un conto salato anche questa volta. Bestetti, so che lei magari gestisce, come dire, altre situazioni rispetto a quelle che noi bazzichiamo invece frequentemente a Salvadanaio. Cosa può dire, insomma, per rassicurare appunto la platea magari dei piccoli che in realtà sono molto più preoccupati di quanto non sembri rispetto a questa nuova situazione che si è creata negli Stati Uniti? Ma che, essendo una grande truffa, non ci sono portafogli da liquidare velocemente o situazioni di difficoltà di un fondo che si è trovato a dover vendere in un particolare nicchia di mercato. Purtroppo è stata una grande truffa, quindi una strategia inesistente, e le perdite sono circoscritte a chi è entrato nei fondi gestiti o sotto la consulenza di Madoff. Quindi non mi aspetto impatti, quelli che in letteratura vengono definiti rischi sistemici, quindi possibilità tensioni sui mercati azionari e obbligazionari, dato che non ci saranno ondate di vendita in seguito a smobilizzo di portafogli. Tanto è vero che nei giorni dell'annuncio di questo mega crack, i mercati azionari e obbligazionari hanno continuato a essere certamente non brillanti, ma non sono certo precipitati in seguito a queste notizie e al recepimento della perdita ultramiliardaria messa a segno dai fondi gestiti. Insomma, possiamo rassicurare, non è che ci rassicuravano tanto anche rispetto al crack Lehman Brothers, poi abbiamo scoperto che molti italiani avevano delle polizze vita, lo strumento di investimento più banale, indicizzate e agganciate appunto anche alla grande banca d'affari americana. È impossibile che possa replicarsi una situazione di questo tipo? È assolutamente impossibile. Se gli investitori hanno dei fondi Madoff, chiaramente ne subiranno le conseguenze, ma se non hanno questi fondi in portafoglio, direttamente e indirettamente, possono stare tranquilli. Grazie molte a Stefano Bestetti di Edginvest SGR, a Stefano Gaspari di Mondo Edge per essere stati con noi. Speriamo di aver tradotto nella maniera più semplice possibile ai nostri ascoltatori le ultime vicende che ancora una volta arrivano dagli Stati Uniti e hanno a che fare con un crack finanziario. Speriamo, come ci hanno rassicurato naturalmente, ma siamo sicuri che sia così, che rimanga piuttosto circoscritto a chi ha dovuto confrontarsi direttamente con questo scaltrissimo finanziere. Salvadanaio termina qui, noi ci risentiamo domani. Da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. Salvadanaio.